Non sta uscendo di radio. Sacco. Grazie Marco. Adesso ti ho sentito, grazie Marco, è proprio bassina, diciamo. Nell'ultimo passaggio ha migliorato già. E beh, Ginko, niente male? Niente male, Marco. Ciao, buongiorno comunque. Buongiorno a tutti. No, al mare non stai andando tu, oppure non ti piace? No, già, non è vado matto col mare, però già ci vado un giorno. Però non è che rimango lì a prendere il sole o a bagnarmi. Io sarei andato oggi perché preferisco i giorni feriali al fine settimana, perché sabato e domenica c'è troppa gente, rischi di non trovare o posto auto, oppure poi sai, bisogna stare un po' distanziati in teoria, e quindi dai, però mi sono stancato stamattina, ho dovuto fare commissioni, poi non trovo parcheggio vicino a casa, sono dovuto stare quasi un'ora in macchina. Finché se ne ha liberato uno, però ero già in un bagno di sudore, quindi mi sono sconciato. Ok, quindi stavo preparando uova sode, devo bollire il riso e ci facciamo un'insalata di riso oggi. Con questo caldo qui ci vuole. Mi sa che domani la faccio anch'io. Una bella insalata di riso, mozzarella, uova, mais e via dicendo. Avanti l'altro amico, aspetta che c'è l'alimentatore che mi sta facendo un rumore infernale. Devo alzare il volume, dai. Adesso mi senti? Kappa, nominativo mi sfugge, perdonami. Padre Riccardo, sono Alfa 21. Ho capito, sì, dalla timbrica, bene o male. Mi sembravi tu, però non mi ricordavo il nome. O il nominativo, dai. Sì, la modulazione ha migliorato rispetto a quando sei entrato, che proprio non ti sentivo. Comunque Radio 1 anche. E voi ieri scommetto che eravate in zone belle col camper, tipo campeggio. Sì, eravamo un po' in giro, ma come dicevi era pieno di gente sulle spiagge, praticabili. Sì, infatti guarda, io vabbè ho la possibilità di andare anche i giorni feriali. Quando me la sento, ma sabato e da domenica soprattutto è un incubo alle volte. Cioè se vai di mattina devi essere già alle 8:30 in spiaggia per trovare parcheggio e posto in spiaggia. Poi zona di Alghero non ne parliamo. Finché Platamona, il mare dei poveri, ma Alghero, io mi ricordo una volta a Capo Galera, sono arrivato presto, sono andato in acqua presto, molto e tutto, sono stato 2 ore in acqua, ritorno alla spiaggetta di Capo Galera e praticamente c'erano gli asciugamani attaccati uno all'altro, cioè io non potevo passare con i piedi bagnati senza calpestare gli asciugamani altrui, una cosa schifosa a vederci. Saluto anche all'amico Ginko che ti ascolta. Ho cambiato microfono perché avevo un +2, che adesso non sta andando bene. Adesso è buona, la radio buona. Ginko è molto amplificato in confronto, mi spacca le orecchie, è molto molto amplificato. Bene, peccato per la serata, vabbè se non fossi uscito stamattina sarei quasi andato, pazienza, comunque l'estate durerà ancora 2 mesi, forse anche 3, dipende. Riprendi Ginko, dai che do un'occhiatina qui alla roba. Sì, Marco, non ho capito chi è l'altro amico, non me la dico, adesso già lo sento, però non ho capito chi è, avanti. E Alfa 21, che mi senti adesso, sto uscendo? Sì, adesso ti ascolto, Alfa 21. Che zona sei di modulazione? Zona di periferia, la parte alta del mondo. Ma siamo vicini allora, dai, siamo abbastanza vicini. Ma stai usando anche meno di macchina, cosa stai usando? Per essere in quella zona che dovrei stare fare a fondo scala. Ah, sto provando un vecchio apparato che sicuramente c'ha problemi. Adesso cambio apparato e vedrai che mi sentirai meglio. Vega, ok. Qua c'è 9+15, 9+15. No, qui è proprio 5 di Sant'Emi, geniale, Marco. La radio è 3. No, qua ti va bene, lui grosso modo zona Fileghetto, credo di aver capito. Diciamo un segnale medio, per essere laggiù in fondo, grosso modo la zona ho capito che quella è buono. Poi se si attacca non ne parliamo, dovrebbe arrivare 9.20, 9.25, dipende quanti wattusa. Sì, ma non ho capito, cosa sta usando di antenna, se c'è l'antenna sul tetto o qualche antenna normale. Sì, dovrebbe essere quella della Sirio, a meno che non ne abbiano più di una. Avanti break. Adesso come mi senti? Cazzo, adesso la modulazione è aumentata, però il segnale è sempre quello. Non lo so, comunque sto usando l'antenna esterna, una Blizzard, quindi mi sembra strano che sto uscendo basso. Conta che Ginko ha un antennino, dovrebbe essere un radiale di manto, va giusto Ginko? Sì, un radiale di manto va Marco. Eia, no, io sono zona Cinemari, sto con la 5 ottavi, quindi il segnale tuo di Riccardo bene o male è quello. Eia, la Blizzard, sì, io mi stavo confondendo all'inizio con l'827, invece poi l'ho riconosciuta da quell'anello che, diciamo, regge i radiali, come vuoi dire. Non so se sia una gabbia antifischio addirittura. Oh. Praticamente l'hanno migliorata sicuramente per dargli resistenza un pochettino al vento, perché quel collare in testa tiene i radiali, hai capito? Eia, no, io invece ne ho una di tipo, mamma mia, sta alimentatore mi sta mangiando il cervello. Sembrava migliorata la situazione, l'ho tutto lubrificata la ventola, ma... vabbè. Ti dicevo, c'ho una 5 ottavi di tipo leggero, la Energy 5 ottavi, 3 radiali, pesa solo 2,5 kg staffa compresa. L'ho presa più leggera possibile per non tirantare, palo basso, tanto qua siamo in condominio, vedono molto male i tiranti qua. Ho capito, ma comunque stavo parlando del segnale di Ginko, in effetti anche lui mi arriva a basso e non ci avevo fatto caso perché sentivo comunque che la radio è buona. Ma comunque la radio è buona, Alfa, è buona. Il segnale non è forte, può anche sentirsi. Infatti non ci avevo fatto caso proprio perché ti stavo ricevendo con una buona radio. Però adesso ho capito perché mi ricevi un po' con quel segnale, perché altrimenti è strano perché l'antenna è piazzata in alto e quindi insomma adesso ha cambiato anche apparato, dovrei arrivarti sicuramente meglio di segnale. Vabbè, comunque, rispondi Marco. Allora, qua il segnale non ha variato e confermo quello che dice Ginko Emanuele, e qua il segnale è sempre 9,15, la modulazione questa è più forte, e comunque siamo lì come segnale. Io sto usando 3 watt perché, vabbè, ho degli spezzoni, diciamo, dai, mi mangia un po' di segnale, 3 watt, purtroppo 50 metri di cavo. 50 metri reali di cavo, 213, quindi qua ce ne sono 3, magari su ne arriveranno 2 seppure. Ho capito, beh, allora sì, 50 metri di cavo non sono pochi, dai. Ma comunque mi arrivi bene, ti dicevo bene, stanziato la TNAV, ma la radio è 5, se, come al solito, insomma. Sempre il solito baracchino, alla fine quel 40 canali omologato, il 3009, il Superstar. Cioè, mi trovo meglio con questi che con quei pasticci elettronici di adesso, con quei display, già hai capito, dai. Questa addirittura è componenti classici ancora, cioè è di fabbricazione recentissima, però credo che sia l'ultimo apparato della 27 con i componenti ancora classici, e quindi è da tenere stretto per quello. Dai, no, io li preferisco comunque in ogni caso come apparati rispetto a quelli moderni più recenti. Vabbè, avanti Ginko, con che apparato sta uscendo? Io sto usando una vecchia Galaxy, sempre un mezzo. Ah, ho capito, la conosco. Vabbè, non è male. Adesso sto con questo apparato, quindi stavo, perché l'altro che stavo provando era un vecchio Royce, ma non sta andando bene. Purtroppo a meno che non si faccia una messa a punto, trovando anche i ricambi giusti, ogni tanto qualche acciacco ce l'hanno quelle radio, bisogna sempre un po', diciamo, starli dietro, ecco, starli dietro. Finché sono componenti tipo condensatori, vabbè, passi, ma se si rompe qualche... come PLL quello, non è quartzato, non so, qualche integratino dell'epoca, bisogna vedere se si trovano in pezzi anche, o qualche finale particolare, boh. Però non è stato, molti anni fermo, quindi sicuramente qualcosa gli sarà successo, ma me lo immaginavo, comunque non fa niente, abbiamo quelli di scorta, per fortuna. Poi a costo da due farne uno, capito? Insomma, comunque, bene o male, chi ce l'aveva il Royce? Aspetta, forse Antonio Diossi aveva un Royce, e non mi ricordo se aveva un problema che non sono mai riusciti a risolvere, credo fosse proprio il Royce, e va bene. Dai, signori, io sono costretto a lasciarvi, mi devo lavare anche alcune pentole e poi preparare il tutto per stasera. Lo faccio adesso perché poi se lo faccio all'ultimo momento, tutto in fretta, lo faccio male, ok? Ciao Emanuele, ciao Alfa 21, ci sentiamo alle prossime, ok? Riprendi Emanuele, ciao a tutti. Ciao Marco, ci sentiamo, dai, buona continuazione di... giornata, ce la riascoltiamo. A te, al momento. Ok, vado da Marco, alla prossima, grazie per i controlli e niente, ci risentiamo prima possibile, dai. Riprendi Emanuele. Sì, ok, dai. Ciao ancora Marco. Allora, al momento. E niente, io tanto spendo qualche apparato, ma mi sa che è difficile poi trovarne uno che funzioni come si deve. Vabbè, comunque abbiamo chiamato l'Antonio, abbiamo risolto questo problema, adesso ogni tanto troviamo gli apparati per vedere quali sono quelli da scartare e quelli invece da usare. No, comunque questa qua è buona, dai, ti ascolto abbastanza bene, tranquillo. Adesso volevo attaccarne anche un altro perché per provare un pochettino, vedere un pochettino un altro microfono per vedere se riesco a capire se è il microfono o poi l'apparato che mi sta dando problemi. Ma che radio stai usando? No, adesso ho un SBE, prima stavo usando un Royce, adesso ho un 4.5 da provare, voglio vedere un po'. Ma capito. Comunque, adesso ti ascolto, prima quando ti ho ascoltato non ti sentivo per niente. Allora, poi stavo usando un vecchio MC2, la Palma, ma non sta funzionando davvero. Sicuramente anche lui è rimasto molto tempo fermo. Gli è venuto un po' di artrosi anche al microfono. No, sicuramente, adesso gli... Questo è una strufata di 4 volte per gli impianti per il circuito elettrico, vediamo un pochettino se qualcosa si risveglia, altrimenti lo mandiamo in pensione anche a lui. Sì, sicuramente è una strufata di buona roba di verità che già si ammorbidisce, ma sicuramente sarà un po' di polvere o qualcosa nei contatti. Allora, quando questo cosa sono soggetto, quando c'è un po' di umidità, restano fermi per qualche tempo. Non un problema, peccato. La tua zona più o meno qual è dove stai in modulazione? Sono a Palima, a Pau. A Palima? Sì. Ah, ok. Vabbè, allora, comunque la radio è buona. Il segnale infatti è basso e... che non ci ho fatto caso, comunque mi sembrava strano, cioè se non fosse rapportato alla radio il segnale ti dava una stanzata, vabbè, lo davo per scontato, ma comunque arrivi bene con la radio, dai. Più l'antenna che non va una CD, l'antenna che non funge, la radio già va bene, la radio è l'antenna che vuole cambiare. Di questi apparati qui, dove qualsiasi apparato sia, le cose più importanti sono l'antenna e il microfono, poi il resto è un po' relativo. perché l'antenna per emettere e il microfono per rendere la voce chiara, squillante, sono le due cose fondamentali, altrimenti non ce la fa. Se ne manca una di queste due è un problema. Beh, infatti è così. E vabbè, quando ci avrò tempo e ci avrò il tutto, la metterò su un'antenna come si deve. Io adesso ne avevo già fatto addirittura tre nel giro di qualche giorno, prima era zero, prima addirittura mio figlio modulava con un dittorio, aveva fatto un dittorio autocostruito, tutto sommato andava bene, si faceva sentire, poi abbiamo iniziato a avere esigenze di farci, soprattutto lui, di farci ascoltare un pochettino più lontano, allora abbiamo iniziato a piazzare antenne, e adesso forse abbiamo anche esagerato. Vabbè, come tutti a fare, anche io stesso ho iniziato con un'antenna di macchina, con l'antenna di macchina non ci sono città la grappina la pugna e ne ho cambiato antenne. Allora tu alla fine inizi con antenne, antennine, di antenne di macchina ne ho diverse, ma è inutile stare lì a piazzare antenne per poi non essere ascoltato, quindi abbiamo deciso, vabbè, prendiamo questa, insomma Mantova non se ne trovavano più, quindi abbiamo deciso di prendere questa Blizzard che praticamente gli assomiglia, e quindi ci siamo trovati bene, ci è andata bene, perché altri modelli hanno dato problemi. Allora io ho avuto sempre le Mantova, dopo di quelle antenne lì ho cambiato sempre tra la Mantova 1 e la Mantova 5. Poi dalla Mantova 5 mi si era rovinata, non so cosa ci aveva, e ho comprato l'827, per l'amor di Dio, ho preso quell'antenna lì, quando tirava il vento, cazzo, si andava che c'avevo un elicottero sul tetto, allora il condominio mi rompevano le palle e quindi ho dovuto prendere questo cerchio qui, che praticamente era questo cerchio qui che bloccava i radiali. Ma ne avevo sentito un altro di CB che aveva piazzato quell'antenna lì e aveva avuto un sacco di problemi. Anche noi l'abbiamo vista a catalogo, ma non ci ha convinto più di tanto. Poi abbiamo visto questa qua che aveva comunque era stata molto materiale, aveva quelle faccette di rinforzo, eccetera, eccetera, perché sono una zona molto ventosa, quindi ho detto prima o poi a questo scherzo il vento ce la fa. Allora abbiamo deciso di prendere queste, ma tutto sommato ci troviamo bene, perché poi le piazzi, le accordi velocemente col radiale di punta è perfetta. Uno di stazionari va benissimo. Ma quale dici? L'antenna 827? La Blizzard, la 27 per fortuna non l'abbiamo presa, la Blizzard. L'antenna va benissimo, perché va benissimo. Solo che il problema che dava era quella roba lì del radiale, che quando ce l'ho messo fischiava, ti faceva una specie di rincontro, ma cazzo che casino. E infatti avevano risolto, poi l'avevano migliorata evidentemente con questo modello qua, che hanno fatto quel cerchio da applicare in Torsion e poi delle fascette di rinforzo sul radiale centrale, sullo stereo centrale, e quindi sicuramente hanno trovato problemi e che hanno risolto così. Cazzo, l'avevo pagata e costava, non so adesso se ne fanno ancora, penso di sì. L'avevo pagata la belletta di 120 euro quell'antenna lì. Sì, la fanno ancora, l'ho vista a catalogo perché noi le abbiamo comprate da poco, noi abbiamo comprato due Blizzard, costano 130 l'una, costavano un po' di più, ma ne valeva la pena, insomma, tipo 10 euro in più, adesso non mi ricordo esattamente. Figura, no, io non la prenderei più l'antenna lì. È buona, sì, ripeto, con l'antenna va benissimo, solo che c'è quel problema lì. L'unico problema è quello. Alzano, adesso io, ad esempio, qua non ho problemi perché non sono in un condominio, quindi l'antenna me la sistema, me la piazza, me la smonta senza problemi. Ma figurati uno che è in condominio se deve andare a piazzare l'antenna ogni volta, o controllarsi l'antenna ogni volta che c'è temporale o tira vento. vabbè, dai. No, io adesso se la metto, insomma, metto sempre una secondaria, ma senza variare, una canapa e sta sicuro. ho capito anche quella, non è che mi abbia convinto più di tanto, poi magari funziona anche bene. Infatti non ci siamo fidati più di tanto, perché molti consigliavano quella, però poi ho detto ma sì, prendiamo questa qua che assomiglia, ricorda un po' la Mantova, e speriamo che sia una Mantova migliorata o perlomeno uguale, e quindi abbiamo deciso di prendere quella. E comunque già vanno bene, dai. Le circostanze vanno tutte bene, importante che non hanno problemi come hanno dato a me per il fatto di avariare. Del resto vanno tutte bene, ci sono circostanze. Ma sì, ormai sono un po' standard, hanno azzeccato la lunghezza d'onda con la CB per migliorare un pochettino l'uscita in potenza, e quindi vanno bene quelle. Quando ero ragazzo io mi ricordo che il massimo era la Grand Plane. Me lo ricordo anche io, ma no, sembrava un polpo di antenna. Un radiale lungo, cioè, era 1,20 m il radiale. Sì, è una cosa esagerata, però tutto sommato ancora lo facevano resistenti, secondo il modello che prendevi comunque ti duravano, e tutto sommato forse un quarto d'onda andava bene, non era granché, ma non era neanche male, e il prezzo era anche popolare, perché credo che costasse relativamente poco. Vabbè. Non è fatto. Adesso c'è gente che ha la bazooka, c'è gente che sono antenne che non vanno accidenti, antenne da balcone, non sono antenne da tetto. Con quello diciamo che abbiamo iniziato un po' tutti, perché all'inizio non sai che antenne prendere, come piazzare, quindi ti arrangi con una boomerang e sembra che hai trovato chissà quale soluzione, poi alla fine quando vedi che il baracchino non rende come dovrebbe rendere, che sei comunque sempre in difficoltà per essere ascoltato, non è anche molto distante, ma già oltre la periferia sembra chissà che cosa, quindi tu alla fine ti decidi a piazzare un'antenna come si deve, altrimenti non ha senso. Appunto, infatti non ha alcun senso mettere antenne a temere che poi non arrivi da qui da 10 km da casa tua, e quindi se la devi mettere, la devi mettere buona guarda. Sì, gli americani dicono che bisogna spendere $1 per la radio e $100 per l'antenna, quindi già con questa frase uno capisce che non c'è cosa migliore che avere una buona antenna, e poi io ripeto anche il buon microfono, perché è indispensabile per il tono della voce, altrimenti è inutile stare lì a mettere super apparati o amplificatori lineari e balle varie. Guarda, io sinceramente lo avevo una volta un lineare da base per 231, ma per carità, come accendevi mi sentivo anche dentro ai telefoni. L'ho usato una volta, ho perso e per tutto subito, e io ho mai usato lineare, mai. Allora poi il problema, infatti, per chi sta in un appartamento, in un palazzo, andare da dove non lo so, ma andare a disturbare come succedeva prima, che mentre stavano guardando la televisione ti sentivano parlare, è una cosa un po' antipatica, sia per i vicini di casa che per chi parlava, che aveva problemi di soggezione anche a trasmettere, perché sapeva benissimo cosa succedeva. È un casino quando iniziano a entrare nelle radio, nei telefoni, nelle televisioni, se ne passa anche la bocca. Tanta gente infatti ha avuto problemi, soprattutto anche per quella questione lì, e quindi molti litigi sono nati, e quindi la gente ancora oggi ho come sento qualche collega che hanno, come ti vanno piazzando antenne sul tetto, e già iniziano a guardarti male. Basta lasciare cagare, non ho capito. Posso un attimo chiuso, che cambio un attimo apparato e mi dici se mi ascolti sempre bene. Sì, già, vai. Senti adesso? Adesso ho cambiato apparato, adesso c'è un altro apparato, un altro microfono, non so se è cambiato qualcosa almeno di radio. Allora, la radio rimane un po' più fina questa, invece l'altra rimaneva un po' più grossolana. Vabbè, quindi forse è meglio, è più chiara questa? Non male, ma vanno bene tutte e due. Cioè, vabbè, ho cambiato sia apparato, questo Tornado 4 e 5, questo Turner, adesso ciò. E quindi, niente, la differenza non credo che sia grande. No, comunque è buona la modulazione anche questa, solo che l'altro microfono te la faceva più grossa, più amplificata. Capito. E adesso vabbè, ce l'ho regolato un po' a metà, vediamo un po'. Adesso è al massimo, va meglio? Sì, al momento va benissimo, la modulazione è perfetta. Va bene. Peccato, perché l'altro parecchio che ci tenevo, quel Royce 693, non sta funzionando bene, ma bisogna che me lo controlli un pochettino. Ci tenevo tanto, e invece boh, più li lasci fermi è peggio. Ma è così, con tutte le cose così, con tutte le cose elettroniche le lasci ferme da parecchio, poi le sono dalle nuove. Succede. L'importante è poterle sostituire. Già è cosa di trasmettere da un faro in una lontano dal mondo e avere un solo apparato, allora sì che è un guaio. E vabbè, dai. No, comunque la modulazione è perfetta, dai. Una radio buona. L'importante è quello. Tu che oltre a quello che apparati avevi da usare in trasmissione? Guarda, Ventù, io ne ho cambiato una marea, ho avuto HF, linee di HF lo stesso, 450, 440, 140, ho avuto il quadribanda dell'897, ho avuto l'altro l'817, sempre quadribanda, 857, sempre quadribanda, e poi vari portatili che c'avevo, ma avevo tutto dato dopo, mi ero stancato, tutto venuto. Capito. Ascolta, di quelli HF qual è quello che ti ha più soddisfatto? Com'era il 450, l'850 com'era? Guarda, il 440 come radio usciva abbastanza buona con l'MC60, però come estetica non mi piaceva tanto, preferivo più il 450, era più bello. È anche più recente come linea? Sì, era tutto digitale, era più... mi piaceva di più come forma, capito? Capito, perché stavo guardando sia uno che l'altro, e quell'altro proprio il 450 mi è sembrato proprio completamente diverso, più recente, ma poi come dimensioni si assomigliano? Sì, come dimensioni mi sembra per un più largo rimane il 450, però non è tanto. Infatti io l'ho visto in foto, ma mi ha dato questa impressione che fosse leggermente più grande il 450. Sì, comunque non male, dai. Forse qualcuno diceva, stavo leggendo, che in AM non era molto predisposto. Dovevi trovare un microfono adatto per l'AM. Dovevi trovare un bel microfono adatto per l'AM. Io usavo il suo originale nel 450, la saponetta. E usciva bene lo stesso in AM. No, non ne ho mai messo MC60 nel 450, ce l'avevo solo nel 440 e basta. Ho capito. E infatti stavo leggendo questo, che non... ma qualcuno parlava forse di un filtro o qualcosa, adesso non mi ricordo, per modulare, perché non è in modulazione di ampiezza non era il massimo, stavo leggendo, però non ho capito poi a che cosa si riferivano, se era relativo a quel tipo di frequenza che non dava il massimo, oppure relativo a quel microfono, non lo so, questo non me lo ricordo. E poi niente, a me mi piacevano molto anche quei vecchi Sommerkamp, lo stesso Grossi, gli FT 101, 103, mi pare 107, adesso non mi ricordo bene. Sì, ce l'avevo io, l'FT con la valvole, madonna, uno o due scosse alle mani mi dava quando so, c'è sempre quel problema che c'è sempre qualche punto a massa che poi eviti, devi evitare di toccarlo così, anche sfiorarlo, soprattutto perché ti prendi a volte, non so, a volte ti scarica qualche tensione addosso. Poi non ne parliamo se ti avvicini per assurdo con i piedi, a piedi nudi. Io fa crescere il cappelletto da ora. Infatti, perché me l'ha fatto tempo fa, che stavo provando addirittura un valvolare di un apparato CB e lo stesso mi ha scaricato, mi avevano già avvisato, ma sai, a volte le cose te le dimentichi, e mi ha scaricato qualche tensione così e mi ha ricordato che era meglio stare attento. Vabbè, dai. Comunque sono un bel radio lo stesso, da museo però, non da modulare, da tenere anche i cereali. Ma infatti, vabbè, se sono tenuti bene, che funzionano, uno li può ancora usare senza problemi, però la maggior parte poi devi stare anche attento perché li trovi o manomessi o tenuti male, e c'è sempre quell'incognita lì, perché altrimenti insomma piacciono, tecnicamente mi piacciono molto, molto più di quelli recenti, che è tutta plastica e a volte non hanno nessuna, come estetica non sono granché. No, quello che c'avevo io, le FT, adesso non mi ricordo il modello, era tutto in ferro, infatti mi ricordo solo quando avventavo il piede mi dava certe di quelle scosse, madonna, avevo anche paura di attaccare il piede, infatti il conto, devo spegnere la radio, attaccare il piede e riaccendere. Incredibile. Vabbè, sì, era proprio quel modello lì che piaceva a me, ne stavo guardando alcuni, poi qualcuno che era interessato l'ho contattato, ma l'aveva appena venduto, ed erano bei modelli, mi piace, ce n'è uno soprattutto in c'è il frontale bello, lucido, in alluminio, mi piace, cioè, belli apparati, si sono tenuti bene. Non sono male, il problema magari sarà trovare le valvole oppure riallinearli, non è facile. È quello lì il problema. Ma tu adesso stai vedendo sul market? Ah no, gira un po', vai ai siti di annunci così, sia dei rianimatori che di CB, insomma già se ne trovano diversi, solo che andare a prenderli così è un po' un salto nel buio, questo ne sono cosciente di questo. Non so neanche che persona ce l'aveva, devi andare, non lo so, io sicuramente non ne prenderei mai, radio così non ne prenderei mai fuori, a meno che non è privato, allora lo vedi, lo provi e tutto quanto, ma comprare così è come che stai comprando roba scatolatizza, perché non sai le sorprese che ti vengono dopo. Quello lo so, sono cosciente di quello, e molte volte sono più i rischi che ti assumi che i vantaggi, e purtroppo è così, quando sei anche al di fuori di un ambiente e non sei a contatto con persone che magari di fiducia che conosci, cosa vuoi fare? Purtroppo se vuoi avere certi apparati è così, c'è la possibilità che succeda questo. A volte ci va bene, a volte ci va male, mettiamo in conto, infatti non mi espongo molto con prezzi eccessivi, perché male che vada, fregatura per fregatura, insomma, non succede niente. Vabbè, vediamo se c'è qualcuno che vuole andare avanti. Comunque, Alfa 21, io l'avevo preso, parlo di una ventina d'anni fa, un 440, da internet. Ho preso una fregatura, dai, mezzo fregatura, perché quando l'ho portato a casa, mi è arrivato a casa, lo accendevo, sembrava che c'era un trattore. Il problema era dalla ventola, perché era tutta impastata, era sporco e tutto quanto. L'ho preso, l'ho spedito alla Kenwood e me l'aveva tutto sistemato. Poi quando per tutto l'avevo fatto cambio con il 450, sempre lì, io abitavo lì nelle zone di Milano, andare via alla Chievo ci mettevo poco, stavo vicino, quindi come vedevo che faceva quel problema lì, l'ho portato subito a fare controllare. L'ho tenuto un paio di mesi, poi l'ho cambiato per il 450. Insomma, meno male che avevi l'assistenza portata di mano, perché altrimenti è un problema serio. Altrimenti c'è da prenderlo e metterlo da parte e dimenticarsene. Purtroppo è così, ma comunque sono i rischi di questa passione, quando non sei molto pratico e quando le cose non le vedi di persona, è quello lì il problema. Comunque, meglio che siano questi i problemucci che altri irrecuperabili e insanabili. Per il resto sono radio, quindi possono scassarsi in qualsiasi momento, proprio qualsiasi cosa, smalto di tensione, qualsiasi cosa. Poi però una cosa non capisco, come mai uno che non ne capisce nulla si mette lì a smanettare, a smontare, a fare, a toccare. Questa è una cosa che mi lascia un pochettino perplesso. Sì che ci mette le mani uno che è capace e che sa quello che sta facendo, ma io ho capito che la maggior parte di questi apparati sono tutti, molti, non tutti, ma molti manomessi dai vari proprietari che l'hanno avuto. Boh. Appunto, è quello, io ne ho conosciuto parecchie di quella gente lì, dove abitavo, parecchi che ci mettevano le mani, aumentavano le regie, aumentavano i bassi, palle e bassi, proprio con questi aperto erano. E io prendevo la radio così, la prenderei e buttavo alla modesta. No, infatti è strano, cioè che si permettano di mettere le mani addosso a un apparato che è sofisticato, poi è complesso e il funzionamento è comunque subordinato ad altre funzioni, cioè non è che se smalli, si muove una cosa e tutto il resto poi dopo ne risente, però non lo so. Comunque, questi sono i soliti arrangioni, ma esistono in tutte le cose, quindi. Però insomma sulle radio, che uno che non capisce nulla ci mette le mani sopra, mi sembra un po' demenziale. È quasi infantile questa voglia di smontare che avevamo da bambini. Anche quando eravamo ragazzi avevamo questa voglia, perlomeno la maggior parte di noi, di aprire e vedere come era fatto dentro, ma poi dopo insomma un po' ti passa. Ti passa sì, ma poi inizia che apri, cosa vuoi fare? Se non hai mai fatto di quel lavoro lì, non sai neanche dove mettersi le mani, cosa aggiusti. Io sinceramente non ho mai aperto una radio, mai scherzo buttato. Io quando c'avevo un problema andavo dall'assistenza, ma gente che sapevano mettere le mani, lo portavo, ma lo mettevano a posto. Ma certo, l'unico lavoro da fare era quello, che poi addirittura a volte ci sono incapaci anche tra quelli che si ritengono professionali, quindi non solo, c'è anche quell'incognita che a volte non capiti neanche nel professionista capace, quindi puoi immaginare quello che è proprio ignorante in materia, cosa ti può fare, quindi boh, mi sembra strano, una cosa assurda che non concepisco, che purtroppo riesci nella realtà di queste delle radio, riesci a scoprire certe cose assurde di gente proprio incapace che si permette di aprire apparati e di modificare, di fare chissà con quale intento. Poi e poi se sono abbassata la casa ce la devi buttare proprio nella modesta la radio. Io per alcuni ci avrei messo anche nel coperchio il teschio con le ossa per fargli capire che non è roba da aprire e stare a distanza il più possibile, come facevano nei tralicci dell'Enel. Sì, appunto, come facevano lì, infatti. E vabbè, dai, comunque, io ne ho speso tanti, ne ho vari anteme. Ripeto, non lo spenderei più perché non ne vale più la pena. A parte che prima erano affitti, adesso sono col computer, telefono e vale parte. No, certo, quello sì, è che vabbè, io adesso sto riprendendo così, ma era una passione che mi era rimasta così da ragazzo, poi io l'avevo messo da parte, non era una cosa anche che mi mi interessava più di tanto, perché dopo un po' poi anche secondo com'è ti annoia, e quindi ho ripreso giusto per mio figlio, perché si è di nuovo appassionato lui questi apparati, quindi ne stavo approfittando a rispolverare un po' il tutto, altrimenti, cioè, se uno c'ha altre cose da fare non è che sta sempre attaccato alla radio. Appunto, poi con questo tempo qua non penso che la gente sia attaccata al baracchino, se ne esce. Infatti adesso, come tutte le cose, si pensa prima alle cose importanti e poi ai passatempi, agli hobby e a tutto quello che resta. Soprattutto se poi questi sono legati anche a spese economiche importanti, la gente evita, perché il più delle volte la ritrovi dentro i supermercati cercando di comprare roba da mangiare. Adesso la trovi anche dai cinesi di prima del radio, fate il conto. Un po' si mettono anche loro a prenderlo. Infatti adesso questi che ci hanno invaso, soprattutto economicamente, siamo quasi succubi. Addirittura un altro po' eravamo famosi anche per la moda, un altro po' vestono meglio loro che noi. A noi ci danno la roba loro e loro vogliono la roba nostra, quella fatta in casa, quella buona. Non lo sai che così, infatti. È così, la roba nostra la finiscono fuori. La roba di loro la lasciamo qua. Cose assurde, cioè a me mi è capitato di andare a Barcellona e trovare dell'abbigliamento made in Italy buono che non riesco a trovare manco in Italia, e in Italia ci danno tanta di quella mondezza così per accontentarci, perché ormai siamo abituati a spendere tanto a due lire, e quindi ci accontentiamo di tante piccole cose che poi alla fine non ne vale una. Sì, ma anche a Soventù, ma anche nella roba da mangiare, la stessa cosa. Tanti bestiami le portano fuori. Le robe, i bestiami di loro, non so da dove arrivano, le portano qua e le fanno passare come roba salda. Sì, perché stanno barando. Hanno imparato e hanno capito che il compratore finale va preso in giro, va raggirato. Quella è un'operazione che loro fanno con piacere, perché noi siamo convinti di essere furbi quando andiamo a scegliere, a osservare, prima di comprare, ma loro ci hanno già studiato nell'atteggiamento e nel pensiero, quindi ci raggirano e ci fanno pesci continuamente. Adesso addirittura stavo leggendo che tutti i produttori cosa hanno fatto per non alzare i prezzi, perché ci sarebbe stato un calo degli acquisti. Allora cosa hanno fatto? Riducono la quantità del materiale oppure la qualità, mantenendo gli stessi prezzi, quindi praticamente ci guadagnano ancora una volta. Sì, il guadagno ce l'hanno, ma pure se ce l'hanno il guadagno, siamo scemi noi, l'Italia è scema, si sta zitta e basta. Ma tanto prima o poi ne paghiamo le conseguenze, quindi non lo so, sono curioso di sapere quando si tocca il fondo, perché sembra che questo fondo lo tocchiamo sempre ma non siamo mai arrivati a fondo. Quando si toccherà il fondo ci sarà sicuramente un risveglio, e chissà, magari sarà anche troppo tardi, qualcuno dirà, però siamo a vedere fin tanto che uno si lascia prendere in giro, quanto è come il grado di sopportazione, no? Che cambia da soggetto a soggetto, c'è quello che si irrita subito e c'è quello che per farlo irritare ne devi fare di tutti i colori. È così, infatti, così, fino a quando arriviamo alla colagola, ma mi sa alla colagola siamo già arrivati, ma non succede niente. Non credo, prima o poi succederà qualcosa, non succede niente, perché forse la gente non lo ha capito ancora, perché è stordita dal tenore di vita che continua a tenere alto, no? Quindi macchinoni, abbigliamento cellulari, vita sfarzosa per alcuni, e quindi ci guardiamo attorno uno con gli altri e sembriamo che siamo tutti nel benessere, invece c'è tanta di quella povertà e di quella tristezza attorno che fa paura. Sì, lo so, io ripeto, io da qua me ne sono andato che avevo 20 anni, cos'è, 18 anni, sono andato per lavoro, e lavoro c'era, tanto lavoro. Sono stato su 22 anni, poi me ne sono risceso perché l'avevo calato tantissimo. Da quando è uscito questo cavolo dell'euro, il lavoro stava sempre scarseggiando. Ma l'avevamo già avuto sentore, già nel 2000 quando c'era stato questo passaggio qui, già eravamo un po' mal ridotti e questo è stato uno di quei colpi, di quelle batoste che abbiamo preso senza neanche accorgercene, perché ci hanno dato una di quelle fregature, niente male. E ci hanno costretto a mantenere il ritmo, perché purtroppo paradossalmente per tenere quel ritmo, quell'economia, ci hanno fatto correre e ci hanno spremuto per bene, non ce ne siamo accorti, ma ci hanno impoverito piano piano. È come quello che perde i capelli, li perde un po' alla volta, no? Se li perdesse di colpo si sarebbe scioccato, invece li perde piano piano e arriva calvo, lui manco se ne accorge. Infatti dopo volevo rimettere tutta la lira, ma quando mai? La lira rimetto, non la rimetteranno mai. Se dovessero rimettere la lira diventiamo un'isola nel mondo, perché praticamente non abbiamo più rapporti con gli altri, non siamo in grado di competere, sarebbe una cosa, per noi sarebbe una cosa devastante, cioè non avrebbe senso, diventiamo uno staterello indipendente che gli altri non considerano più, quindi dobbiamo tenere il ritmo e cercare di migliorare sicuramente non tanto nell'economia ma nelle produzioni, nella valorizzazione di alcune cose, altrimenti non ne usciamo, perché abbiamo sottovalutato i cinesi, ma i cinesi hanno fatto la muraglia, è l'unica opera umana che si vede dal satellite, cioè non vanno sottovalutati. I cinesi stanno facendo i soldi dall'Italia, se tu guardi i ristoranti ce li hanno loro, abbigliamenti, i negozi di abbigliamenti ce li hanno loro, parrucchieri, di tutto, fanno tutto loro. Gli italiani non sarebbero più che fanno ristoratura e parrucchieri, quindi poco e niente. Il problema sai qual è? Che li hanno sottovalutati, è una questione di razzismo, li hanno sottovalutati non rendendosi conto che è un popolo che ha delle modalità di convivenza sociale completamente diverse dal nostro e sono di una produttività spaventosa, in quanto essendo numerosi devono comunque produrre e rendersi autosufficienti e sostenersi, perché è una grande nazione. Tu considera che già negli anni 50 c'era una grossissima comunità cinese in Canada, quindi un posto già ostile per le temperature e per la cultura, quindi figurati, poi sono arrivati qui e hanno spopolato. E in più hanno investito impoverendo uno Stato, perché gli hanno comprato tutte le aziende migliori, perché pagavano in contanti, hanno sempre avuto una liquidità che noi non ci potevamo neanche immaginare. Adesso addirittura dal primo di luglio le spese in contanti andranno da 3.000 a 2.000 euro massimo, quindi renditi conto qual è l'intenzione che il governo ha di mettere freno all'economia. Vedrai, è un altro casino che uscirà fuori. Ogni anno ce n'è una nuova ogni anno. Non so dove andremo a finire. Allora, il risultato finale sarà quello di non utilizzare più il contante. Quindi non utilizzare più il contante significa toglierti anche la libertà di poter comprare e pagare quello che vuoi in qualsiasi momento e senza anche dover rendere conto agli altri. E poi chi traffica con soldi sporchi continuerà a farlo comunque, è come quello che ha bisogno della pistola, sei delinquente se la procura a prescindere dal porto d'armi. Il porto d'armi lo deve chiedere chi non è delinquente, chi deve dimostrare che la pistola la usa per altri fini, ma chi è delinquente non ha problemi, il porto d'armi non se ne fa nulla. Appunto, non se ne fa nulla, no. comunque adesso se fanno questo corso qui da una carta, che devi pagare solo una carta, che non ci sono più contanti, siamo di più ancora controllati, pensate. Ah, certo, questo è l'intento che il governo ha, no? Di vedere un pochettino il tuo tenore di vita. Poi ci saranno dei programmi per calcolare, per studiare che tipo di persona sei, perché con il rilevamento di tutti i dati, del tenore di vita, di quello che compri, di quello che preferisci, di quali sono le tue abitudini, tu renditi conto che c'è dietro questo comportamento c'è la descrizione di un profilo, profilo dell'individuo che è quasi perfetta, quindi sanno tutto di te. Sì, lo sanno già da adesso, figurati, siamo già controllati da adesso, figurati quando faranno quella roba lì, ancora peggio. Ti ricordo che quando si parla, ogni volta io mi è venuto a ridere, ogni volta che si parla di privacy ce n'è sempre di meno, non so se hai notato. E quindi ti rendi conto che più se ne parla di privacy e meno ce n'è, come il biologico, più usano la parola biologico e più i prodotti sono alterati. Ma anche privacy, insomma, non ce n'è più di privacy, se ci controllano anche nei telefoni, figurati, la privacy, dov'è la privacy? Ma lo sai che la gente vuole rassicurata, la gente ha bisogno di rassicurazioni e lo Stato gliele deve dare, no? Come un padre dà al figlio, cioè il figlio che è messo male, che purtroppo è in difficoltà, lo rassicura, non ti preoccupare, ci penso io, e quello continua a rilassarsi, ci penso io, fa il mantenuto, ci penso io, lui continua a fregarsene, a non darsi da fare, e poi alla fine niente, alleva un mentecatto. È così, stiamo vivendo, non lo so, la vita che sta andando avanti, più uno schifo sta diventando, è uno schifo, totalmente uno schifo, specialmente qua in Italia, e poi negli altri paesi di giù non lo so come sono. Ma guarda, negli altri paesi non credo che vada tutto bene, che sia tutto perfetto, però alcune cose funzionano, soprattutto nei paesi dove ci sono persone di culture diverse, ci sono persone numerose, per forza di cose bisogna far rispettare le regole e dargli un senso, altrimenti sarebbe un caos, no? Quindi è normale che le regole poi lì si applicano e devono essere per forza rispettate, altrimenti perdono il controllo. Noi, bene o male, tutto sommato, l'italiano ragiona e pensano quasi tutti più o meno allo stesso modo, perché la cultura è quella, le abitudini sono quelle, quindi è più facile controllare e dare un pochettino di falsa sicurezza, no? È più semplice, però in altri posti dove la gente è più autonoma, ha capacità di ragionamento più aperto, diverso, non è facile, non è che li puoi controllare così, se le regole non vanno rispettate la gente poi si ribella. È logico che si ribella, è logico, cazzo, dalle parti di non so dove era, cazzo, stavano facendo un casino della Madonna, ribellandosi per il fatto come siamo noi, e noi andiamo avanti e ci stiamo sempre zitti, non diciamo mai nulla, ma loro si stavano ribellando, però non so cosa hanno spaccato, vetrine, macchine, si mettevano a buttare di tutto. Lì si fanno sentire, in certi posti si fanno sentire perché hanno comunque ancora un senso, il senso di libertà individuale ce l'hanno forte, no? Come in America e in altri stati. Per cui se violi quelle regole che sono comunque riservate a ognuno di noi, loro ne risentono. Noi invece purtroppo non crediamo nello Stato. Diversamente dagli americani. Gli americani credono nello Stato e non credono nella famiglia, quindi hanno più il senso dello Stato e gli manca il senso della famiglia. Noi abbiamo il senso della famiglia ma manca il senso dello Stato, quindi siamo un po' al contrario. E il contrario significa che finché non ci toccano nel privato, nel profondo, non reagiamo, ce ne freghiamo. Sì, ci tappiamo le orecchie, ci prendiamo gli occhi, è come che tutto rose e fiori. Purtroppo è così, però poi dopo ne paghiamo le conseguenze, tutti, anche quelli che non vogliono guardare, si ritroveranno a dover pagare, come lo Stato ci rammette ogni tanto, il debito pubblico, che come nasce ognuno di noi se deve pigliare una fetta, una bella fetta appena nato, e te lo appioppano col famoso codice fiscale. Come nasci non è importanza come ti chiami, ma ti appioppano il codice fiscale e sei buttiddu. E dopo te la danno loro, bene bene. Perché sicuramente ci sarà qualcuno, magari, che abita qua in Italia senza nome, ma senza codice fiscale mi pare un pochino più strano. Ci sarà sicuramente uno che non ha, anche senza nome, che però ha un bel codice fiscale, che può essere rintracciato, non confuso con un altro, a meno che è un caso su un milione, ma difficile, e quindi poi ti scovano ovunque sei. Si scovano sì, perché mi sembra strano che non c'è nessuna cosa di... Il codice fiscale lo dovrebbero avere sicuramente, poi dei documenti ce li ho, non lo so, ma beccarlo lo beccano lo stesso, non lo beccano oggi, ma già lo beccano più là però. Allora, ma ce l'hanno, quello è poco ma sicuro, sotto quell'aspetto sono abbastanza ordinati, preparati e consapevoli che è essenziale per identificare il contribuente, perché poi, come dice il nome, è un codice fiscale, serve per il fisco, e il fisco in Italia spesso ti segue sino alla morte. Comunque stavo dicendo Alfa 21, ma tu da tanto che modulavi, sì? Il torno è iniziato 77, forse 75-77. Allora ci siamo già risentiti una ventina d'anni fa. Ah, possibile, adesso non ricordo, perché poi ho smesso di modulare per parecchi anni. Io c'avevo tutta la roba conservata dentro un baule, intanto che mio figlio non l'ha aperto e ha visto cos'erano queste radio qua e là, ha iniziato a smontare, cioè a tirarle fuori, a piazzarle, e poi da lì abbiamo riniziato da, forse sarà qualche mese. Allora, ti ho messo a tornare su, a mettere tornare su un buio antenne e radio. Sì, mi sono dovuto improvvisare, ho fatto l'antennista anche i mesi scorsi, ne ho perso, ne ho piazzato una, addirittura una in garage, poi ne ho piazzato un'altra perché gli ho fatto una casa sull'albero, quindi modula da una casa sull'albero e ho l'antenna sopra la casa, quindi figurati. Ah, tu sei il padre Riccardino. Sì, esatto. Adesso non ho capito chi era. Puoi capire che questo adesso io mi accontentavo di avere un portatile e parlare con un antennino, adesso lui ha l'imbarazzo della scelta e non sa quale prendere per andare a modulare, quale postazione, ogni tanto prende, cambia, scende a seconda di come l'umore. Vabbè dai, io ripeto, ho iniziato con un walkie-talkie, poi da walkie-talkie ho iniziato con un vecchio Zodiac 40 canali, dopo da lì piano piano ho iniziato a migliorare, anche lui farà la stessa cosa penso. E adesso lui, rispetto a come abbiamo iniziato noi, neanche troppo di roba, quindi a volte mi sto anche preoccupando se non sto esagerando, perché noi infatti con un portatilino, mi ricordo quei portatili con l'antenna allungabile, era già qualcosa di eccezionale, quindi figurati se non eravamo felici. Adesso invece hanno anche troppo, e quindi c'è il rischio che